Sì, perché si tratta di arte contemporanea in tutte le sue forme, un essere uno e trino, spazi adibiti e trasformati, si parla di Casa Orfeo. Ciao a tutti. E questo è uno degli uni e trini. E poi l'altra voce, sentiamola. Ciao. Quindi abbiamo un maschio e una femmina, in più c'è un'altra femmina con la febbre a casa, sì. Poverina. E ti presento Casa Orfeo, Stefano, a distanza telefonica. Ciao Stefano, come stai? Molto bene, voi come state? Molto bene tranne una, gli altri stiamo bene. E volete dirgli così in due parole, molto velocemente, che poi lo rimandiamo alla sua mostra, di cosa parliamo stasera? Sì, parleremo di questa casa che è nata pochissimo tempo fa. È una casa che accoglie un sacco di artisti. Sì, è in via Orfeo. Bravo. No, perché è un nome che ricorre a Bologna. Hai un trascorso in quella via? Ti abbiamo già visto da qualche parte? Ma comunque è una via che, Mickey e Max lo conoscono tutti. L'epicentro di ogni creatività contemporanea. In realtà esatto. È molto probabile che Casa Orfeo sia nata dagli effetti collaterali dovuti a Mickey e Max. Esatto. Sì, è una casa che nasce appunto pochissimo tempo fa. È un'idea nostra, mia, di Anna e di Veronica. Vabbè, non svegliamo troppo, che sennò io poi come faccio a scavare nell'interiore? No, semplicemente è una meravigliosa casa galleria. Sì. Ma più che una galleria, molto contemporanea. Sì, è uno spazio culturale dove, diciamo, l'intimità della casa si interfaccia con l'arte. Ma molto, molto, anche oltre, che io già ho sentito qualcosina intanto che stavo aspettando. Perciò, Stefano, tu che sei molto interessato a queste cose, domani su www.coxospaziale.blogspot.com te la riascolti. Così poi, quando li rinvitiamo, avrai tutte le domande da fare. Sarò preparatissimo, esatto. Sì, e molto anche bene. Perché il blog poi me lo fai tu domani, vero? Che io c'ho tanto da lavorare. Sì, certo. Okay. Non aspetto altro domattina. Bene, sono contenta. Però tu in cambio ti ricordi di Sì, ce l'ho copiata tutto. Fantastico. Quasi la chiamavo anche, invece no, alla fine no. No. Invece no, va bene anche così, dai. Ok, comunque, allora secondo me questi di Gallery 16 bisognerà chiamarli prima o poi per capire cosa fanno. Sì, chiamiamoli, se fanno anche i concerti dal vivo. No. Poi comunque, detto questo, non è che possiamo, Casa Orfeo possiamo decidere il futuro di Coxo Spaziale al telefono. Anche Casa Orfeo fa i concerti dal vivo. Potremmo specializzarsi sulle gallerie che fanno musica. Molto bene. Va bene, comunque io adesso ti saluto. Il 257esimo Coxo, se ho detto bene il numero, continuerà senza di te. E molto tutte bene. Le tue fan saranno tristi di ciò. E stammi bene e salutami le grandi cornici che stai andando a vedere. Molto bene, grazie. Ciao Pasc. Ciao. Ciao. Ciao Pasc. Ciao. Ciao. Ragazzi, com'è andata? Se l'è cavata bene Stefano? Diciamo di sì. Ma perché si chiama Pasc? Cioè, perché lo chiami Pasc? Perché lui è Stefano W. Pasquini. Ok. Grande ente dell'arte contemporanea bolognese, curatore, artista, accademico. Facciamolo venire in Casa Orfeo, così ci cura un po'. Questo qua. Bisogna chiamare la segretaria. Yumi, sua figlia, che allora vi faccio sentire proprio questa, dato che ci siamo. Performance, ricerca, teatro. Cosa? Posso parlare? Certo che puoi parlare, siamo in diretta. Avevi la tosse. Ah, potevi tossire. Vabbè. No, comunque, questo qui era un gingolino. Sì, sta a posto. Si parlava di cosa siete, cura, mi viene in mente sentirti tossire così. No, comunque, Casa Orfeo, quindi, nasce recentissimamente. Sì, Casa Orfeo in realtà è attiva da pochissimi mesi. Abbiamo fatto due eventi, questo sarà il terzo. Facciamo gli eventi una volta al mese perché Casa Orfeo in realtà è casa nostra. Vivere il quotidiano mentre si organizza si organizzano eventi d'arte non è proprio così semplice, quindi non abbiamo le energie e le forze in grado di sostenere soltanto un evento al mese. Sì, anche perché poi cioè, dopo l'evento praticamente siamo una settimana non parlanti, sì. Completamente fuori dalla da e questo perché? Perché come dicevano i nostri maestri, l'arte è vita. L'arte, certo. È vita. Nelle vostre vite è entrata in pieno, ci ha travolti. No, ma allora c'è questa cosa. Allora, quindi facciamo un po' di ordine. Innanzitutto, sì. La voce femminea che ci ha appena parlato è la voce di Anna. Sì. Invece la voce mascolina è quella di Massimo e la voce mancante è quella di Veronica. Sì. Queste tre creature che si sono incontrate nel bel mezzo agli inizi, all'albore del loro percorso curatoriale, probabilmente, non so quante altre cose avete fatto insieme, in via Orfeo. Sì. E iniziate prima come coinquilini o come curatori o come... Come coinquilini. Coinquilini abbiamo cominciato a vivere insieme, tra l'altro cioè a me Anna stava antipaticissima, per una serie di motivi di cui adesso non parlerò, però diciamo che è stata lei da... L'ho dovuto sedurre con una serie di paste al forno. Da dove arrivate? Io dalla Sicilia. Io dalla Puglia, da Taranto. E la Veronica? Veronica è molisana. Non ricordo perché ogni volta mi pronuncia questa strana regione di cui ovviamente disconosco le origini, ma no, sì, è molisana, di Boiano. Vabbè, a proposito che stiamo parlando di Veronica, io la butto lì, è una cosa un po' così mistica e coccica. Ciao Vale, so che ci stai ascoltando. Vale, scusaci. L'hanno lasciata a casa con la febbre, mi dispiace, sì, che era una grande sostenitrice di Veronica. Ah, ok, ok. Sì, sì, di Veronica. No, ma la cosa interessante è che quindi vi incontrate, comunque immagino siete venuti qui a scopo universitario proprio per affondare bene, sì, le vostre mani nella materia artistica, sì, immagino. Anna, sì, io in realtà no. Relativamente, perché ho studiato italiano, una specialistica di lettere moderne, quindi non è proprio nell'ambito artistico, nell'ambito letterario, ma sì, comunque c'è sempre un interesse relativo. Massimo invece... Io ho studiato per un sacco di anni fotogiornalismo e poi vivo in Danimarca fino a poco tempo fa, poi ho deciso che mi mancava tutto ciò che era italiano. Come di adesso lì in estate ci sono pure le calure afose di Bologna, che sembra di stare qua. Non parliamo dei danesi che già penso in febbraio, come vedono il primo sole, incominciano a uscire in infradito e sono veramente simpaticissimi, però insomma sono una realtà un po' più diversa ovviamente, a cui ci si adatta, però insomma erano tanti anni che non abitavo più in Italia, sì, son tornato e Bologna mi ha accolto bene. E una cosa che voi fate quindi a restituire è accogliere, esatto, le, esatto, espressioni artistiche. Che beh, allora poi andiamo più nel dettaglio a parlare di quali sono le vostre scelte curatoriali, di come ingaggiate artisti e di tutte le fra gli aspetti più così tecnici. Sì. Adesso una cosa che vorrei condividere tantissimo con i Cox ascoltatori è questa cosa che ciascuno di voi ha una stanza dedicata ad un'arte, che per me è una cosa meravigliosa. Come è venuta fuori questa struttura della casa galleria con le stanze e le celle, si diceva prima, dedicate? Allora, questa casa è una casa con tre camere da letto, un corridoio abitabile, una cucina e chiaramente un bagno, che per noi è uno spazio importantissimo dal punto di vista proprio delle esposizioni e delle installazioni. E il bagno ha sempre fascino. Sì, vero? Assolutamente. Io è una cosa a cui tengo particolarmente. E queste stanze, chiaramente, cioè in queste stanze ci sono degli elementi che fanno sì che ci sia un riferimento, sì, al nostro tipo di, cioè all'arte a cui ci siamo interessati sostanzialmente nelle nostre vite. Io ovviamente sono fotografo, perciò nella mia stanza ci sono le esposizioni, vengono organizzate le esposizioni fotografiche. E in quella di Anna invece ci sono le arti performative, perciò tutto ciò che è visual o comunque qualsiasi cosa che sia relativa alla musica avviene nella stanza di Anna. ovviamente abbiamo tre stanze, di cui una è adibita a camerino, barra magazzino. Scusa Veronica, ma non ti offendere, ma dovevamo dirlo. Perciò abbiamo deciso che oltre la mia stanza, oltre a occupare quella che, quelle che sono le esposizioni fotografiche, ci sono anche le performance teatrali, di cui ovviamente in realtà si occupa totalmente Anna, perché sì, io di teatro. Quindi è un'invasione. Sì, esatto. Sono invasioni continue, assolutamente. Sì, sì, sì. La cosa più divertente però è che gli attori trovano come palcoscenico il letto, quindi performano sul letto. Intorno al letto c'è il pubblico e quindi si trova dentro la scena. Una performance da camera. Una performance da camera, ed è molto bello, non perché lo dico io, ma perché che è una cosa fighissima e basta. No. E poi guerra coi cuscini. No, è molto bello perché ci sono queste emozioni amplificate chiaramente dalla vicinanza tra l'attore e lo spettatore, quindi si esce un po' emozionati dalle camere. Per cui questa cosa ci ha fatto drogare in qualche modo e ci stiamo appassionando sempre di più, non vogliamo smettere. Sì, quindi diciamo che se da una parte più di 3 giorni al mese non ce la fate, dall'altro vi sono necessari ormai. Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Anche perché il primo evento, insomma, abbiamo cercato noi gli artisti. Poi ovviamente è venuta tantissima gente che faceva arte e che ha proposto tantissimi progetti. E abbiamo cominciato a ricevere mail di proposte e questa cosa a noi ci ha fatto impazzire, perché volevano in qualche modo provare questa esperienza, questo luogo intimo in cui ovviamente non è una galleria ma è un luogo dove tutti ci sentono a casa e prende bene, insomma. Sì, prende bene. Ma. Allora, io adesso vorrei tanto sapere come è venuta fuori, perché quindi abitavate già insieme da un pochino. Abitavamo già insieme da un po', però chiaramente la casa non era come adesso, in quanto prima c'erano altri coinquilini. Mm-hmm. Un bel giorno questi coinquilini hanno lasciato casa e hanno portato via tutto quello che era di loro appartenenza, quindi siamo rimasti con la casa completamente vuota e abbiamo detto: ma che bella questa casa così vuota. Ma guarda come la dobbiamo arredare. Arrediamola con degli artisti. Sì. Prendiamoli, inchiodiamoli al muro. E quindi abbiamo deciso di lasciare quasi tutto vuoto, abbiamo soltanto le cose. E allora questi primi 3 giorni di attività come sono stati inaugurati? Chi è venuto? Allora, in realtà il primo evento è stato solo di un giorno. Sì, sì, perché volevamo un po' provare. Sì, c'è sta. Che giorno era? Dai, che giorno era? Mamma mia. Chi se lo ricorda? Io mi ricordo soltanto che si intitolava Primo Piano a Sinistra. Sì, sì, perché poi ovviamente logistica prima di tutto. No, erano tutti artisti barra amici. Come tutti? Quanti? 8 saranno stati. Abbiamo invitato 8 artisti. Sì, tra l'altro c'era il bravissimo Io Sono. Mm-hmm. C'era anche quello, come si chiama l'altro? Vabbè, rimaniamo ancora ai contenuti. Quindi, come si svolgeva questo happening di inaugurazione? Sì, allora abbiamo fatto l'apertura con la mostra fotografica di Michele Lapini. Ah, sì, che è un fotografo. Quindi la tua stanza. Sì, sì, è stata adibita a quella mostra lì. Poi, insomma, ci sono state Beatrice e Agnese Banti che hanno fatto un'altra installazione mediterranea. E quindi la tua stanza? Sì, sì, che è stata completamente stanza invalidata da più di 400 ciotole di ceramica fatte a mano. Mannaggia! Sì. E poi abbiamo avuto anche degli attori, tra cui Clara De Rose, che è un'attrice che lavora tanto tempo con Emma Dante, che è una grande del teatro contemporaneo. Abbiamo avuto Carolina e Michele, che si sono anche loro incontrati in un appartamento e hanno deciso di cominciare a collaborare insieme in Casa Orfeo. E adesso praticamente sono due performer che viaggiano sempre insieme. Carolina Cappelli e Michele Petrosino. Diciamo che in qualche modo Casa Orfeo per alcuni versi è stato un po' il luogo di sperimentazione di alcune persone. Domandone: arrivano delle installazioni o delle mostre impacchettate, o sono in qualche modo anche proposte in relazione con il posto? Spesso sono anche vengono, no, fatte apposta, sì, per Casa Orfeo. Sì, in realtà è sempre una sorta di sperimentazione, perché gli artisti ovviamente sono abituati a esporre in galleria, perciò ogni volta che vedono lo spazio, perché noi, per noi è importantissimo invitarli prima a vedere ciò che è Casa Orfeo, e loro cercano e vedono gli spazi e a seconda di quello che sentono ci propongono di mettere una determinata... Con la visita c'è anche la pasta asciutta, sì, di Anna. Sì, c'è un bicchiere, sì, di vino, sì, ci sono le candele. No, è un'atmosfera in realtà magica questa di Casa Orfeo, perché non so perché in realtà questa casa è all'interno di un convento del 600. Wow. Le stanze sono quadrate. Vabbè, c'è celle. Sempre questo parco. Sì, esatto, sì, sono celle. Esatto, tra l'altro, poco fa ne parlavamo dell'energia positiva della via Orfeo. Mm-hmm. Tant'è che per noi il sogno è quello di colonizzarla tutta. Tutta casa. Il sogno è quello di. Noi invitiamo i nostri vicini di casa, certo, o non solo del palazzo, ma anche del quartiere, perché il nostro intento è quello di fare un mega evento tra varie case di via Orfeo. Sarebbe bellissimo, tipo la biennale di via Orfeo. Sì, sì, no, in realtà oltre a via Orfeo quello che vorremmo fare sarebbe unire tante realtà come quella di Casa Orfeo a Bologna. Perciò stiamo cercando, e questo è un appello che faccio, sì, in radio, se c'è un'altra casa, un altro spazio come Casa Orfeo che organizza delle serate del genere, sarebbe bellissimo avere una collaborazione tra... Ma dove? Qui a Bologna? Sì, a Bologna. Cioè, allora forse io qualcuno potrei avercelo. Sì, allora diccelo tantissimo. Sì, che è un po' che non ci viene a trovare. E fra l'altro ci è venuta a trovare in diverse forme. Mm-hmm. Perché una volta me la sono trovata come batterista dei Renoir. Ma chi è? Come si chiama? E poi una volta... è venuta e io sto questi un attimo di... Sì, sì, ma anche noi tra l'altro, cioè, quando c'è un attimo ci hai preso alla sprovvista quando tu ci hai chiesto chi abbiamo ospitato, e mi ho messo nella stessa situazione in cui state mettendo me, assolutamente in difficoltà. Noi non ci ricordiamo neanche più un nome, perciò adesso ci stamperemo una lista, però una ve la ricordate di sicuro, che me l'avete raccontata prima, e con quella io vorrei anche chiudere la trasmissione. Vabbè, certo, perché è geniale, ma mi ha scaldato proprio il cuore. Sì, sì, invece adesso siamo arrivati in quel momento un po' così, che a metà trasmissione, di cui vi ho anticipato che poi avete lì le cosine. Bene, quindi bene, mettiamo questo branino per ricoxigizzarci un pochino, e a tra poco con la 257esima puntata di Coxo Spaziale dedicata a Casa Orfeo. Vediamo un po' se... Ah sì, un attimo, perché riproviamo a trasmettere in pieno ascolto un brano di Homo Mini Loops, che... che ogni volta che proviamo a trasmetterli non vanno. Ah, bene, stasera andranno. Stasera dai. Andrà, si chiama Solo Man, proviamo. Sì? Forse sì. Tra l'altro lo stavamo già ascoltando in sottofondo, quindi a tra poco. Oh, yeah. incredibile, Homo Mini Loops, trasmesso da questa trasmissione non solo come musica di sottofondo, è un evento unico e irripetibile. Casa Orfeo ha fatto il suo dovere. Sì, quasi ci fosse stata una Maria dei Miracoli. Vabbè. Poi ne parliamo. Sì, perché adesso c'è un'altra cosa che ha alquanto del miracoloso come ogni settimana, che è... Ce l'ho? È questa cosa qui. L'angolo della menzione. E chi comincia a leggere? Comincia Anna. Ovviamente. Ci vedi bene, Anna? Sì. Andiamo. Sabato 23, ore 17:30, l'urgenza di agire. Selene Centro Studi, primo momento pubblico del laboratorio di composizione istantanea urbana che sto conducendo nei caseggiati di Via Abba per il progetto Fatti Vivo. Grazie all'invito dell'associazione Senza il Banco ci inseriamo all'interno delle loro iniziative social Coabitiamo. E salutiamo Roberta Zerbini con queste sue meravigliose attività di quartiere con le quali non faccio una gaffe, mi fermerò qui. Chi va con 24 domenica 24? Domenica 24 ci sono io alle ore 19 circa, alle 16 presenta Lydia Is. Sì, un gruppo. Trio, sì, è un trio formato da Lydia Centineo a voce, Michele Lenzi che invece suona la chitarra e il bouzouki e Fabio Ruggeri al basso. Michele e Lydia suonano insieme e compongono pezzi dagli anni 90 e hanno collaborato insieme o separatamente con diversi musicisti. Con la formazione attuale seguono brani rock, new wave, trip hop anni 80-90, rivisitati e riarrangiati in chiave semiacustica. Come sono andato? Ottimo menzionatore. E questa qui invece la dico io, che mi sembra di essere meno com'è che si dice quando c'hai non di parte, esatto, vabbè. Da giovedì 28 a sabato, no, insomma, per tre giorni. Sì, 28, 29 e 30. Sì. Ok. Dalle ore 19, perciò, Recor a casa Orfeo. Recor, richiamare in cuore il ricordo, l'apparire nella memoria di quello che non è più qui ed adesso, nella dimensione del sentimento concreto, dell'esperienza diretta. Casa Orfeo propone un percorso a ritroso nel tempo, un percorso nel quale il passato ci riconduce fin dove ci si possa spingere, ci accompagna nel ritorno. Come sono andata? Ho letto male? Ho sbagliato qualche cosa? Brava. E di questo poi ci parlate voi, dopo, cioè, appena torniamo dalla dimensione menzioni. Invece questa la leggete voi, magari anche insieme, perché poi, oppure uno legge e l'altro mi fa un piccolo cappello introduttivo, perché voi questo artista lo conoscete. Sì. Mm-hmm, sì. Giovedì 28, alle ore 20:30. Narrando Bo di Spazi Altrove. Della prima serata di spettacolo dal vivo interamente dedicata a Bologna. Mm-hmm. Narrando Bo è un progetto che raccoglie diversi artisti tra attori, autori, musicisti e grafici fumettisti. Come si chiama questo? L'evento si chiamerà Futura ed è il primo evento di Narrando Bo dedicato a un artista della città. Ovviamente l'artista della città, il primo artista sarà Lucio Dalla e la sua poesia, la sua musica e le sue parole. E che mi dite di questo artista? Questo artista è un artista che ci ha deluso profondamente. No, dai, ragazzi, fatemi una bella presentazioncina in linea. Il grande Leonardo Bianconi, un attore con cui abbiamo avuto l'onore di collaborare proprio per lo scorso evento di Casa Orfeo. Quindi un mese fa è stato con noi Leonardo per Nostos Nostalgia, un evento che è stato in collaborazione con Setup Art Fair con Arte Fiera in Bologna. E io ho la gioia di farvi rincontrare, che quasi mi sento un po' la Carrà, come dire, era lei, no? A meno che non abbia riagganciato. Abbiamo qui in onda come ospite telefonico della nostra puntata odierna del Cox Leonardo Bianconi. Pronto? Prova? Sì, c'è ancora! Benvenuto al Cox! Ciao! Intanto grazie per la presentazione, saluto i ragazzi di Casa Orfeo. Ciao Leo, come stai? Sono in forma, voi pronti? Bene, ma devi venire ovviamente al prossimo evento per vedere un po'. Assolutamente, bene, sì. Bene. Voi domani e io la settimana prossima, il 30, d'accordo. Giusto? Se esatto, no, esatto. Noi siamo insieme in realtà, Leonardo, entrambi giovedì prossimo. Sì, sì. Ma io sono domani, è diverso. Domani sera. Ah, ok. Eccola la gaffe che non avevo ancora fatto. Era non nelle abbiamo date sbagliato delle... noi, non abbiamo. È nella data delle menzioni. Vi ho, esatto. Quindi okay. Invece non è il 28, ma domani che giorno è il 23? Domani è sabato 23. Scusa, sabato 23. Dai, 23. Il 4 ce l'abbiamo fatta ad esternare 24. Una data. No, è sabato e domani sera dalle ore 21, secondo appuntamento di Narrando Bocchi, come hanno presentato benissimo i ragazzi, è la prima serata di performance teatrali dedicata alla città di Bologna, o almeno che c'è Bologna come contorno alle storie, ai racconti, ecco. Dici un pochino tu cosa farai domani? Di cosa ci parlerai? Allora, domani ogni serata ha appunto come cornice Bologna e poi c'è un tema, no? Cioè c'è Bologna e poi c'è un tema che guida la serata, la apre, diciamo, fa da fil rouge. L'anno scorso siamo partiti da, ad esempio, una poesia di Roberto Roversi, che era che punto è la città, e quindi abbiamo utilizzato questa domanda come pretesto per raccontare la città, appunto, no? Io chiedo agli artisti che invito di appunto utilizzare questo tema per raccontare la loro città, la loro Bologna, il loro punto di vista. Questa serata, cioè la serata di domani, è dedicata, diciamo, il tema è Futura o Lucio Dalla. Quindi diciamo che è una puntata particolare perché è la prima dove, diciamo, il centro è un artista della città, è un grandissimo artista della città come Lucio Dalla, ecco. Beh, effettivamente si descrive quasi da solo alla fine come evento, con un siffatto tema, il grande Lucio. Beh, sì, diciamo che non è una serata, diciamo, dove, come dire, a ciascun artista viene dato il tema Futura, no? E quindi la canzone, che è una canzone che parla appunto anche appunto del futuro, no? Di questa bimba che se nascerà si chiamerà Futura, quindi parla del domani. Ma dimmi un pochino come sarà strutturata la serata. Allora, ci sono diversi artisti, quindi, come diciamo, più o meno hanno detto i ragazzi, ci sono un musicista, poi ci sono altri quattro ragazzi che fanno tra stand-up comedy e teatro di prosa, e poi ci sarò io che, diciamo, introdurrò la serata e terrò, diciamo, le redini. Uno a uno si esibiscono sul palco per una durata di 10 minuti ciascuno, e la serata più o meno dura intorno a un'ora o un'oretta e 10, e poi dopo si sta tutti allo Spazio Altrove, che è il luogo che ci ospita, ad ascoltare un po' di musica, bere, a chiacchierare. Wow, ma tantissimi artisti, tantissimissimi e bravissimi, tutti i professionisti dal primo all'ultimo. Meraviglioso, allora ci andiamo tutti e tre domani. Yes. Tutti anche e tre, perché Vincenzo è un caro amico e bisogna sempre passarlo a trovare il più possibile, e prima o poi, visto, cioè, se lo vedi anche stasera, digli che mi venga qui al Cox a raccontarmi di Spazio Altrove, per favore. Spazio Altrove, Spazio Altrove, benvenuto. Noi aspetteremo voi invece a domani sera. Sì, così glielo andiamo a dire, certo. Noi di venire al Cox a Vincenzo. Esatto. Ok, grazie mille. Adesso ti lascio, che c'hai una serata teatrale, mi hai detto, e insomma, ho già ti abbiamo rubato teatrale. Troppo tempo. Grazie, non mille per essere stato con noi. Ciao Leonardo. Grazie ciao a voi. Io. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Che carrambata, che carrambata. Mamma mia, allora, per riprendermi dall'emozione, io metto un altro branino di Homo Mini Loops, che se siamo fortunati trasmette pure questo, eh. Adesso devo solo ricordarmi quello che ho trasmesso prima, forse. I'm going to be the baby. Che vi dico, ragazzi? Dici. Non me ero accorta che amo un mini loops fosse così figo, che ogni volta che provo a trasmetterlo non riuscivo a trasmetterlo. Vediamo a casa Orfeo. Amo mini loops, hai sentito? Se ci sei, batti un colpo. Mi sta tornando in Sicilia il colpo, spazio altrove. La Sicilia. Quanto mi manca la Sicilia. Lei. Ma ritorniamo al nostro tema principale, che mi stava mancando anche lui, ma ero affezionata. Vai, ritorniamo. Ospite e tema coincidono nella figura di Casa Orfeo, che è la super mega galattica realtà cui stiamo centrando, cercando di capire come si muove, come non è. Voi siete tanto pazienti, perché io sono proprio decoccio per la 257esima puntata di Coxo Spaziale. E quindi Casa Orfeo è una casa che si lascia attraversare, interagire, abitare dalla creatività contemporanea. E nelle sue stanze e nel corridoio si declinano tutte le forme d'arte note, forse anche quelle non note. Anche quelle meno note. Andiamo verso l'oltre. E si tratta di un'abitazione privata che viene aperta, quindi in questo senso, con anche questo afflato alla rete, alla comunità. Comunicazione orizzontale, che sono tutte cose che, fra l'altro, via Orfeo è, diciamo, uno dei gioielli della città, che ancora portano un pochino l'eredità di questa Bologna così accogliente, insomma, voi che siete arrivati dopo manco l'avete vista, se non fosse che siete arrivati in via Orfeo. Sì. E quindi nasce a dicembre, voi eravate lì, io però il momento in cui eravate tutti e tre lì, vi guardavate in faccia, tutti e tre, ovvero Anna, Massimo e Veronica, che c'ha la febbre, che siete guardati e ho detto facciamolo, vorrei la foto, vorrei. In realtà ci sono varie leggende su questa storia, perché Veronica ci rimprovera, non vuole che raccontiamo queste cose. È vero, in realtà è un piccolo segreto che noi manteniamo, perché ancora più desiderabile. No, in realtà. Va bene, allora ditemi un'altra cosa. Massimo in realtà vuole assolutamente. Te lo possiamo raccontare. E Veronica? Veronica, quando torneremo a casa faremo i conti con lei. Se ci danno le bastonate. No, quello che di cui abbiamo parlato sempre all'interno poi della nostra cucina, che è il cuore in realtà di Casa Orfeo. L'ultima stanza. È lì che nascono tutte le idee. Ci sono state tante scene in cui abbiamo discusso quello che noi davamo a Bologna e alla città che ci ospitava, e abbiamo deciso comunque di agire in maniera non passiva. Perciò cosa potevamo fare? Potevamo ospitare arte, potevamo ospitare quello che erano le iniziative degli artisti, di ciò che poi in realtà Bologna fa crescere. Facciamolo con quello che abbiamo e facciamolo ora, questo è l'importante. Sì, esatto. E poi, dalla menzione che abbiamo menzionato prima, è emerso che, insomma, pare che ogni mese ci sia un tema. Sì, è un tema che nasce sia dalle nostre esigenze, sia dalle esigenze degli artisti, in quanto preparando un po' l'evento e contattando gli artisti che vorremmo ospitare, in base ai progetti che arrivano, un po' in qualche modo si crea sempre quella magia del filo rosso che lega un po' tutte le varie proposte. Quindi in questo ultimo evento che presenteremo sarà proprio intitolato Record, appunto dal latino richiamare appunto in cuore, cioè quello che noi dimentichiamo spesso, proprio perché in questo momento storico della società, della realtà, un po' andiamo sempre di fretta, no? Viviamo sempre presente, futuro, il passato un po' a volte ce lo dimentichiamo, non abbiamo neanche il tempo di riposarci e capire cosa siamo stati prima di essere quello che siamo oggi. Così vogliamo un attimino riprendere il concetto di memoria, di quello che, sì, insomma, che ci siamo dimenticati, attraverso ovviamente il filtro dell'arte. Sì. Perciò invitiamo artisti, e molti artisti ci hanno proposto progetti che avevano come tema la memoria, come il ricordo e il ritornare indietro nel tempo per riscoprire alcune parti di noi. Quindi è tutta una memoria introspettiva. Mm-hmm. Sì, ci saranno varie performance teatrali che toccheranno appunto questo tema. Ma le serate hanno tutta la stessa programmazione? Guarda, in realtà c'è una scaletta, come? Sì, ci sono per questi prossimi 3 giorni abbiamo invitato 22 artisti. Quindi sarà una sorta di mini festival. Sarà una sorta di mini festival, sarà una specie di Tetris in realtà. Perché mi piace il Tetris. Sì, ci sarà una scaletta in cui si incastreranno i vari appuntamenti. Noi insomma dovremo andarci dietro. Ma noi possiamo pubblicarla già da domani su www.coxspaziale.com? Voi potete fare tutto quello che volete, siete già nel nostro cuore. Esatto. Perciò ci saranno concerti, performance teatrali, ci saranno esposizioni sia di fotografia che di illustrazione. Poi installazioni sonore immersive, ci saranno performance sia che avranno anche a che fare sia con la musica che con il teatro, sì, perciò sì, ci saranno magari artisti che performeranno durante la musica, ci sarà anche danza, e poi non ci dimentichiamo che all'interno della cucina c'è anche un piccolo spazio in cui poter insomma bere. Chiacchierare, perché la nostra cucina è un po' il fulcro di tutta la Casa del Fiore, perciò e il fulcro di tutta l'operazione è rendere conviviale la ricerca. Assolutamente, e fare in modo che ci si senta a casa, che non si trasformi mai in una festa. Esatto. Con buona pace dei vicini di casa. Ma che rimanga sempre un evento culturale con delle regole ben precise. Ci sarà anche la collaborazione di Scarto, che è un bar che è in via della Braina. Loro sono degli alchimisti, sì, sono degli alchimisti, perché preparano questi cocktail utilizzando dei materiali. Oddio, qui ogni volta la gaffa attraverso la fermentazione loro riutilizzano tutti questi materiali che in realtà andrebbero scartati, ecco perché si chiama Scarto. Sì. Ma sostanzialmente tutta la frutta che esteticamente non viene utilizzata ci piace un sacco. Invitiamo anche loro al Coxo. Dai. Tanto, sì. Tra l'altro salutiamo Karsten e Laura e Alessio, che sono... Sarebbe un ottimo connubio con un altro caro amico del Coxo, che è Luca Pappalardo, che sta facendo questa sua crociata per una cucina di pesce, con un pesce che non sia prelibato, ma proprio quelli che sono più di scarto, meno noti, che in realtà con le quali lui crea delle prelibatezze. Ha scritto anche un libro ultimamente. Pappa, quando torni? Vabbè. È un po' un tema ricorrente quello, ovviamente, del riuso sia creativo che ovviamente. Ma è finalmente che questo tema si diffonde, sì, perché esatto, abbiamo creato noi uomini moderni, siamo tali, di conseguenza alla creazione della categoria della spazzatura, che prima delle due guerre non c'era mica. Già. E almeno insomma, chissà infatti queste isole di plastica, se effettivamente riusciremo a renderle delle zattere, delle città zattere. Probabile. Noi a Casa Orfeo abbiamo circa 100 ingressi a sera, e quindi per noi è diventato un problema quello della plastica, cioè non vogliamo assolutamente utilizzare la plastica, e quindi abbiamo cercato alternative. Sì. Le abbiamo trovate per il cibo, non le abbiamo trovate per le cose da bere. Ma provate a fare in modo che ciascuno si porti la propria. Esatto, è stata una proposta anche questa, però noi insomma cerchiamo in tutti i modi di non utilizzare la plastica. Qualcosa tipo una bevuta gratis a chi si porta il proprio. Esatto. Ma bravissima, yeah! Abbiamo risolto. Ci tenevo soltanto a dire una cosa, che ogni giorno, cioè il 29 e il 30 in realtà, dalle 17 alle 18:45 ci sarà un percorso un po' più particolare, sempre all'interno, sì, un extra evento all'interno di Record, che è quello del teatro sensoriale a cura di Claudia Masi, Annalisa Zoffoli e Angela Sparvieri, che sarà soltanto l'unico evento a prenotazione, proprio perché ci sono poche persone che possono partecipare, quindi per chi stesse ascoltando ricordiamo di poter prenotare tramite Casa Orfeo. È un'esperienza sensoriale. Cosa significa? Che la casa verrà trasformata in un ambiente che attraverso vari oggetti, vari odori cercherà di compiere una narrazione non verbale e di toccare i sensi delle persone che entreranno a casa di E quindi le persone verranno oscurate. No, in realtà ci saranno, sarà l'ambiente che avrà delle ancora forme più belle. In realtà noi non sappiamo assolutamente niente perché loro entrano in casa nostra e cominciano a confabulare di come trasformare le stanze. Noi li guardiamo con aria interessata, ma secondo me loro vogliono apposta fare questa cosa. Mistero, sì, sì, sì, perché sì, secondo me perché tra l'altro saremo noi stessi a provarla prima, in modo tale che poi tipo garanzia di qualità. Esatto. Se ne uscite fuori malconci. Esatto. Comunque da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per potervi poi intercettare, vedere la programmazione, sì, e anche prenotare, sì, questo evento. Sì, sì. E poi questa cosa qui mi piace perché mi ritorna in mente questo eventino di cui mi avete parlato, perché ritorniamo alla questione che bene o male bellissima questa cosa di condividere lo spazio, meraviglioso il fatto di essere curatori in uno spazio proprio, sì, però questa cosa qui esplicita anche il senso estrinseca, anche una natura profonda del termine cura. Perché giustamente voi dovete stare lì a pulire, svuotare, fare, brigare, e poi dopo se avete i problemi con la plastica non mi immagino coi pavimenti. Com'è, sì, da questo punto di vista? Guarda, siete delle colf dell'arte contemporanea. Sostanzialmente sì, tant'è che mi lamento sempre durante quei giorni e dico sempre di non essere più una curatrice ma semplicemente una sguattera, perché Colf, sono, dai, sempre in, sono sempre con scopa, paletta, sì, stracci, mentre Massimo ovviamente va a bighellonare in giro per casa. Io cerco insomma di accogliere le persone, vengo sempre riconosciuto come quello che in realtà dice non fa niente, non fa nulla, accoglie le persone, cerca di farli sentire a proprio agio, insomma. Però, no, ma non sposti manco i mobili per portarli in magazzino? Quello sì. Dai. Con la canottiera. No, lui è il maschio di casa, quindi fa le cose importanti. Sì, lascia gli odori in giro. Sì, si fa le cose importanti. No, cerchiamo ovviamente di spostare il meno possibile, perché noi cerchiamo sempre di mantenere un po' l'atmosfera. Questo è per giustificarti che non li sposti. Esatto, no, però... insomma, no, ma io volevo scusami, perché volevo arrivare a chiedere, ok, voi andate incontro all'arte, ma certe volte anche l'arte viene incontro, sì, a voi in, sì, queste urgenze primarie. Infatti l'ultimo evento, cioè lo scorso evento, abbiamo chiamato un artista proprio perché io ero stanca di di pulire anche Veronica, poverina, era stanca di pulire in continuazione, quindi ho detto ma chi possiamo chiamare? Abbiamo chiamato la cosiddetta Madonna dei Servizi. Sì, in realtà ce l'ha proposta Laura Fattorini, che è un'altra curatrice che ha preso. Ha riconosciuto come si dice? Le esigenze della casa, e detto ragazzi, vi metto in contatto con Federica Terracina che vi farà un miracolo. E ha fatto il miracolo. La Madonna dei Servizi è arrivata, ha pulito il bagno, ha raccolto in qualche modo la nostra sporcizia. Diciamo che è un artista che basa la sua performance nell'andare nelle case delle persone. Lei ha curato tantissimi progetti, soprattutto a Napoli. Lei entra all'interno delle abitazioni e comincia ad avere questo rapporto attraverso il fare le pulizie, perciò riassettare, pulire le stanze. Incomincia ad avere questo rapporto con chi abita in questi appartamenti e dopo magicamente si trasforma in Madonna. E appare lei bellissima con questa con gli occhi aurea azzurri. Con questa aurea molto molto eterea insomma in questa performance è in qualche modo una performance che è una performance intima comunque, sì, sì, non avviene esatto, in presenza di spettatori, esatto, l'unico spettatore in realtà è il proprietario di casa che si mette lì sulla poltroncina e guarda soddisfatto, sì, lei, magari fumandosi, no, voi non fumate, no, bevendosi un teino. Sì. Esatto. Lei tra l'altro è esposto all'interno del bagno, che per, sì, noi è, insomma, è una stanza importantissima, ma è esposto attraverso varie fotografie ovviamente di quello che ha fatto anche negli altri appartamenti e poi costruendo un vero e proprio altare sulla lavatrice del nostro bagno e sulla vasca nella vasca da bagno, dove insomma c'era una sua foto, c'erano tutto ciò che aveva raccolto facendo le pulizie all'interno del nostro bagno, sì, e ci fermiamo qui. insomma, lei è stata presente, perché poi cosa importante è il fatto che tutti gli artisti siano presenti durante gli eventi, perciò quello che viene a caso, cioè la persona che viene a casa Orfeo può interagire con colui che ha creato la performance o colui che ha suonato. Quindi questa è una condizione sine qua non, se c'è un artista. No, non è una condizione sine qua non, è una condizione che naturalmente si crea tant'è che casa Orfeo per 3 giorni diventa una residenza artistica. Sì, sì, sì. Molti ovviamente, poi parliamo di artisti che non hanno una lira, perciò tipo, ci chiedono ospitalità, vengono a mangiare, ma noi siamo super contenti anche perché respingiamo arte attraverso questi rapporti qua. Per noi è importante avere a che fare con gli artisti perché insomma in qualche modo li ospitiamo e diamo a loro una casa per pochi giorni. Perché poi tornano sotto il ponte. Esatto. Oltre a questo ovviamente organizziamo anche all'interno della casa corsi di fotografia, c'è Angelo Camilleri che bisogna menzionare, facciamo anche degli extra eventi come il teatro sensoriale o come ad esempio Alessandra Guttaglieri che ospiterà un corso sui tarocchi di Marsiglia, insomma tanta roba, veramente. Stiamo letteralmente impazzendo. E infatti il coxo di questa sera comincia a starci stretto, perché ce ne abbiamo ancora da raccontare, ma qua ormai è andata. Non c'è più il tempo. Come facciamo? Tornate a trovarci? Torneremo a trovarci. Anche con la Veronica, magari. Assolutamente. Comincia sì, a venire Veronica. Te ai prossimi eventi, così mm-hmm. insomma. Così mi faccio riconoscere, esatto. Sa su quella, dai, ritornate. Esatto. va bene, se fa così, lo so, a modino. Allora, cara Anna, caro Massimo e cara presenza grazie. Di Veronica, grazie tantissime per aver fondato grazie. Casa Orfeo. Grazie e per a voi essere... per aver ospitato. Questo è un piacere, però c'è una clausola. Quale? Chiunque sale sul Cox una volta è costretto a tornarci. E allora siamo ben felici di pagare questo pegno. E io me ne approfitto e rimetto un altro brano di Homo Mini Lux, visto che ormai è la nostra. E con questo concludiamo il 257esimo Coxo. Ciao, grazie a tutti.